troppi anni chiusi in quattro mura in fughe tra morte e paure. Troppo offuscato dall'incoscienza, dalla droga che il mio cuore ha sete, fame d'amore, voglia d'amare. Ho perso un tempo della mia vita per un veleno di nome droga. Scritto da Salvatore Striano.